un po' impressione leggere sui giornali, in occasione del rituale pellegrinaggio a Washington con cui il nuovo ministro degli esteri, in perfetta sintonia con i suoi predecessori, ha inaugurato il mandato, fa un po' impressione leggere che secondo il nuovo governo l'Italia deve contare. Vale a dire, nelle parole dello stesso ministro, che non deve essere più una potenza minore. È vero che le diatribe sull'importanza del nostro paese nel contesto internazionale ormai sono cosa vecchia, e non so se ricordate quando si discuteva se eravamo la quarta, la quinta o la sesta potenza industriale al mondo, e l'invito a contare di più, almeno in Europa, campeggia già da un po' su quei manifestoni adorni del faccione sorridente del nuovo Presidente del Consiglio che si vedono un po' dappertutto, ma quella possiamo considerarla una semplice propaganda elettorale. Delle dichiarazioni ufficiali di un ministro rese in una sede tanto impegnativa come un pellegrinaggio a Washington, sono molto più preoccupanti. Non c'è niente di male, naturalmente, nella volontà di non essere l'ultima ruota del carro, ma come in tanti altri casi tutto dipende dai criteri con cui si misura la propria e l'altrui importanza. Gli strumenti a cui l'onorevole Martino affida le nostre prospettive di non essere più una potenza minore non sono esattamente tranquillizzanti, perché lui in soldoni ha dichiarato che chiederà l'ingresso dell'Italia nel gruppo di contatto sulla Bosnia, che è composto per ora da Stati Uniti, Russia, Inghilterra e Francia sotto l'egida dell'ONU, perché, citazione, dato il contributo essenziale delle nostre basi aeree, non possiamo essere esclusi dal processo decisionale, chiusa la citazione. Ha aggiunto che l'Italia manderà i caschi blu in Bosnia, e perché no anche in Ruanda, a patto di essere partecipe della decisione e di far parte del comando delle operazioni, e ha comunicato, visto che c'era, di voler rivedere il trattato di Osimo e di aspirare a un posto permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In sostanza, ha dimostrato una certa inquietante tendenza a coniugare i riconoscimenti diplomatici, sia pure da parte di un organo ormai completamente screditato, come mi sembra il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a coniugare i riconoscimenti diplomatici con le capacità di intervento militare. E poco importa, a questo punto si è parlato soltanto di interventi in operazioni a fine di pace, perché tutti sappiamo che da che mondo è mondo i ministri solo a fine di pace desiderano entrare in guerra. Poco importa anche che, a quanto mi è sembrato di capire, Clinton e i suoi, pur simpatizzando a parole, abbiano già posto un gentile ma fermo rifiuto su tutte le singole proposte. Ho il vago sospetto che il ministro, e se non lui almeno i suoi collaboratori diplomatici, che suppongo conoscano il loro pensiero, il loro mestiere, non si aspettassero altro. Ma quella di fare, come dire, la faccia feroce sul piano internazionale è una mossa talmente classica da parte di un governo con qualche problemino d'immagine sul piano interno, che vedercela proporre con tanta puntualità la settimana successiva all'insediamento, lascia davvero lì. Perché fare la faccia feroce, ovviamente, non serve più di tanto per impressionare avversari alleati che sanno benissimo quali sono in effetti i rapporti di forza e che cosa devono aspettarsi dai partner più o meno minori, ma può servire sul piano interno. Può servire a far passare sotto silenzio progetti e prospettive su cui i cittadini e gli organi di informazione potrebbero avere qualcosa da ridire e a spostare l'attenzione in una dimensione in cui si suppone che tutti siano d'accordo. È evidente, no? Gli interessi di parte sono per definizione parziali, ma cose come il prestigio della nazione, la dignità del paese, il suo ruolo nel mondo, il riconoscimento diplomatico, la partecipazione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU si presentano, altrettanto per definizione, come cose al di sopra delle parti. Il che, paradossalmente ma non troppo, le rende degli strumenti utilissimi per occultare delle troppo evidenti parzialità. Paradossi a parte, questa è in sostanza la funzione storica del nazionalismo, quella di compattare in nome di un'astrazione delle persone che nel concreto avrebbero ottimi motivi per non considerarsi dalla stessa parte. Ma siccome la cultura del nazionalismo ha radici profonde e tra di noi è molto più diffusa di quanto sospettino le anime belle, mosse di questo genere qualche risultato in termini di consenso lo ottengono sempre. Forse ricorderete anche voi che il povero Craxi, ai suoi tempi, non ha mai goduto una popolarità tanto vasta e diffusa come quando si è azzardato a fare un modesto sberleffo a Reagan e ha mandato i carabinieri a bloccare i Marines all'aeroporto di Sigonella. Anche lui aveva i suoi problemini sul fronte interno e sapeva che ogni tanto mostrare i muscoli può essere utile, che una tattica simile sia adottata dal primo governo presieduto dall'intimo amico del compianto Bettino non dovrebbe stupire nessuno. Ma siccome questo è anche il governo che ha riciclato a sua e nostra vergogna gli eredi politici del nonno dell'onorevole Mussolini, uno che a chiedere riconoscimenti e posti al sole e a promettere o a minacciare secondo del caso in vili truppe non era secondo a nessuno e su queste faccende ha costruito la fortuna propria e la nostra disgrazia, forse un po' dovremmo, se non stupirci, preoccuparci. L'onorevole Martino gode fama di essere il ministro degli esteri ideali, e non solo perché parla un inglese fluente e veste impeccabili completi di grisaglia in tre pezzi. Lo si dice uomo di vasta cultura e di tratti squisiti, nonché liberale fino al midollo e rispettosissimo dei valori della democrazia. D'accordo. Ma il guaio è che quando si ha il governo con i fascisti, hai voglia di essere liberale, si finisce sempre, come i fascisti appunto, a far tintinnare le sciabole, o in mancanza di sciabole a fare la faccia feroce. Ce ne vergogniamo per lui.